Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Martedì 28 agosto, ore 19. Beh, più o meno. Comunque ci siamo anche quest'oggi, Giulio Caperdoni, ad iniziare Eclettica tutti i giorni, un'ora fra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting. Giulio è radiorockfm.com, l'indirizzo per mantenere il contatto diretto, e abbiamo anche un nostro spazio, myspace.com/eclettica, su cui dialogare fra eclettici. Di giorno ci sfoghiamo sulle strade di un effimero sogno americano. Di notte giriamo tra ville gloriose su macchine da suicidio, usciti dalle bare di cemento verso l'autostrada 9, su ruote cromate, motori a iniezione, correndo sulla linea bianca. Piccola, questa città ti strappa le ossa dalla schiena. È una trappola mortale, un invito al suicidio. Dobbiamo fuggire finché siamo giovani, perché i vagabondi come noi, tesoro, sono nati per correre. Wendy, fammi entrare. Voglio essere tuo amico. Voglio proteggere i tuoi sogni e le tue visioni. Accavalla le gambe su questi sedili di velluto e afferra con le mani i miei motori. Insieme potremo rompere questa trappola. Correremo fino a cadere, piccola. Non torneremo mai indietro. Camminerai con me sul filo perché, piccola, sono soltanto un viaggiatore spaventato e solo. Ma voglio sapere come ci si sente. Voglio sapere se il tuo amore è selvaggio, ragazza. Voglio sapere se l'amore è vero. Questo era l'incipit di Born to Run, di Bruce Springsteen. Today, at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today, at the edge of the future. And my dreams all fade away. We'll be right back. sos de Madrid. Vosotras sois de Madrid. Yo soy catalana. Catalana? O dove è la catalana? Ignorante, un modo di dire, non esiste mica. È come dire l'Atalanta, la Sampdoria. Non esiste mica l'Atalanta. Lord, I've been on the fire. I've been chasing anyone looking out my door. My little bit of country love. And if you don't. I due brani che avete ascoltato in Eclettica quest'oggi sono accomunati dal fatto di non essere presente all'interno delle playlist della trasmissione da qualche settimana, dove però erano già comparsi in passato. A partire da Uncle, in questo caso, assieme a Ian Asbury, il brano che ha accompagnato anche da un video che mi è capitato di vedere proprio in questi giorni, per caso, facendo zapping di notte fonda. Burn My Shadow è il titolo del pezzo. Per passare invece all'appena conclusa Lord I've Been On Fire nella versione Dave Bascom Radio Mix, estratto dall'ultimo album di BC Camp Light. Si passa ora invece ad una nuova prova, quella che sarà la prova che segue l'esordio dei Cloud Room, band di New York City in uscita il 18 di settembre su InSound, con un EP contenente 4 pezzi dal titolo Please Don't Almost Kill Me. The Cloud Room che ci ascoltiamo con la traccia che apre proprio questo EP dal titolo 24 Hour Heartbreak. Just want you moving. Maybe we won't be the last drunk. Oltre il Palace, motori a metà giri rombano lungo il boulevard. Le ragazze si aggiustano i capelli nei retrovisori e i ragazzi provano gli sguardi da duro. Il parco dei divertimenti spicca alto e solenne. I ragazzi si rannicchiano sulla spiaggia, nella foschia. Voglio morire con te, sulla strada, stanotte, in un bacio senza fine. Le autostrade sono piene di eroi distrutti, alla guida della loro ultima possibilità. Sono tutti in fuga stanotte, ma non è rimasto più nessun posto dove nascondersi. Insieme, Wendy, possiamo sopportare la tristezza. Ti amerò con tutta la pazzia della mia anima. Un giorno, ragazza, non so quando, arriveremo in quel posto dove davvero vogliamo andare e cammineremo al sole. Ma fino ad allora, i vagabondi come noi sono nati per correre. Questa era ancora Born to Run di Bruce Springsteen. Bro. Erano questi i canadesi Frog Eyes con il pezzo Bushels, e questa musica, la musica di Eclettica, assieme alle sue scelte cinematografiche, le sue letture, sono disponibili sempre e comunque anche in podcasting. Il dettaglio lo trovate o su myspace.com/eclettica oppure anche e ovviamente sul sito www.radiorockfm.com, il sito ufficiale della radio su cui Eclettica va in onda tutti i giorni della settimana. Chiudiamo questa prima parte per quanto riguarda quest'oggi con gli Art in Manila, la band che deriva dallo scioglimento delle Azurray, duo al femminile. Una dei due membri delle Azurray era Orenda Fink, che già aveva cominciato una carriera solista. Avendo sciolto il gruppo originario, ha deciso di creare una nuova band partendo dal gruppo che l'aveva accompagnata dopo la sua prima prova solista. Quindi non più solista Orenda Fink, ma leader di un gruppo, ripeto il nome, Art in Manila, che ha esordito con l'album Set the Woods on Fire, dal quale abbiamo estratto The Abomination. The abominations on my Di lì, ma che c'è sempre voglia di scherzare? Forza! No, voglio morire. Se stanotte non ne trombo neanche una su cinque, voglio morire. E siccome so già che non ne tromberò neanche una, tappami Levante! Tappami se tu mi vuoi bene!